Radio 24 Reportage. La disabilità diventa risorsa educativa. Viaggio nella scuola per non vedenti Vivaio di Milano, di Cristina Carpinelli. Sono un'insegnante specializzata per l'insegnamento ai bambini non vedenti, sono non vedente anch'io, lavoro in questa scuola da 5 anni ma ho un'esperienza come insegnante da circa 30. Roberta Vicenzi insegna alla scuola media Vivaio a indirizzo musicale di Milano ed è in questa scuola statale che si mantiene fede al patto di un'istruzione pubblica aperta e capace di creare integrazione tra diversità. Un percorso che passa dalla musica, che educa i bambini dagli 11 ai 14 anni a vivere senza pietismo il tema della disabilità, come spiega la professoressa Isabella Perini, docente di lettere. I ragazzini poi hanno anche, secondo me, a quest'età, una totale mancanza di pietismo, che è una caratteristica invece che colpisce di più gli adulti, no? In realtà non sanno, non colgono le differenze, ma anzi lavorano moltissimo perché queste differenze siano appianate. Quindi c'è questa possibilità di essere solidali, sinceri, comunicativi, sempre senza barriere, senza avere pregiudizi. L'insegnante lavora in questo modo, cioè si abitua man mano a ragionare non sempre abituando questi ragazzi ad essere bombardati dalle immagini, ma a lavorare, quindi verbalizzare tutto ciò che può, perché di fatto arricchisce tutti, non solo chi magari in quel momento non può fidarsi alla vista. La scuola media statale Vivaio è da anni progetto di integrazione tra normovedenti e non vedenti, una scuola dove il tema della disabilità diventa risorsa per tutti. Chi insegna qui, come la professoressa Vicenzi, si ricorda bene cos'è stato vivere da non vedente in una scuola pubblica che non garantiva neppure il sostegno, nonostante la legge lo prevedesse. Io vengo da Roma, io ho studiato, sono uscita con la 517, sono uscita dall'Istituto dei Ciechi per fare la scuola media in una scuola comune, senza sostegno, senza assistente alla comunicazione, ma ho fatto parte di quei ragazzi che hanno fatto l'integrazione chiamata selvaggia, cioè buttati nella scuola senza un supporto dalle strutture. Anche se la legge 517 prevedeva la presenza di strutture, allora strutture non c'erano. Alla Vivaio questo non accade, ma è forse l'unico, per quanto meraviglioso, fiore all'occhiello di una scuola pubblica che invece proprio sulla disabilità arranca a più non posso. Paradosso nel paradosso, il modello Vivaio viene studiato all'estero, ma non attecchisce in Italia, come racconta la vicepreside Paola Romanelli. Lo esportiamo in Giappone. Tutti, è già da un po' di anni, anche quest'anno è arrivata una delegazione di presidi dal Giappone, perché la normativa, cioè la legge nel Giappone prevede ancora che ci siano delle scuole differenziate tra portatori di handicap di qualsiasi livello e i normodotati. E siccome hanno chiesto una riforma di questa legge, e allora sono venuti questi presidi, hanno fatto una giornata qua da noi vedendo quale modello di integrazione abbiamo. E com'è andata questa giornata? È andata benissimo, perché poi abbiamo avuto un riscontro, cioè in internet ci hanno mandato proprio dei ringraziamenti e sperano di iniziare ad inserire queste metodologie anche nelle scuole in Giappone. E invece nel resto d'Italia cosa succede? Nel resto d'Italia sono più che altro i nostri ex studenti a farci da cassa di risonanza alle superiori. Disabilità che diventa davvero risorsa dunque quando esiste un progetto che coinvolge tutti. È il segreto di questa scuola pubblica che oggi ha centinaia di richieste di ammissione per 60 posti disponibili. Entrano senza testa d'ammissione solo i ragazzi non vedenti. Una scuola dove vedere significa ascoltare, annusare, immaginare, toccare. La musica è in fondo uno degli ingranaggi, sicuramente determinante ma non unico in questo percorso didattico. Ci racconta il professor Silvano Pasquini, non vedente, docente di musica, che nonostante sia in pensione continua a lavorare alla Vivaio. Pasquini è qui dal 75 ed è in fondo la memoria storica di questo posto. Sono stato insegnante nella scuola per 35 anni, Diciamo che sono stato uno che ha contribuito all'estensione del progetto già a partire dal 76. Questa è una scuola che era prima dell'Istituto dei Ciechi e ora si chiama ancora Scuola per Ciechi, ma è una scuola che ha una sua autonomia e che quindi ha tutti i crismi della scuola statale. I non vedenti su 220-230 persone circa sono una trentina, alcuni con handicap anche aggiuntivi e quindi con particolari difficoltà. Io oggi faccio un po' di volontariato. Io insegnavo educazione musicale e quindi curavo la parte teorica e poi mi occupavo anche della parte, diciamo, pratica legata al coro da una parte e al teatro dall'altra. La musica quanto ha, che peso ha in questa scuola e perché? La musica ha un peso fondamentale in questa scuola prima di tutto perché è uno dei mezzi, a mio avviso almeno, fra quelli più integranti possibili dal punto di vista culturale, dal punto di vista sociale. Quando c'è qualcuno che suona, generalmente c'è qualcuno che canta e c'è gente che ascolta, quindi è sicuramente una funzione integrante fondamentale. Per i non vedenti può essere sia un'occupazione alla fine, nel momento in cui uno riesce a diplomarsi, ma è ancora prima che un'occupazione, è sicuramente un momento formativo importante, perché la base è quella del suono e quindi il suono aiuta l'orientamento nello spazio, a capire la realtà circostante, a dare un po' una dimensione degli ambienti, del vuoto, del pieno, quindi è sicuramente fondamentale nella formazione dell'individuo non vedente. Senta, professore, le volevo fare questa domanda. Lei ha detto che è qui dagli anni 70. Sì. È stato anche studente in questa scuola? No, ho fatto semplicemente il diploma di pianoforte gli ultimi anni all'istituto, ma non ero in questa scuola, ero praticamente in una parte dell'istituto che era allora convenzionato col conservatorio e quindi in un altro reparto. E come è cambiato proprio il mondo di questa scuola dagli anni 70 ad oggi? Da quando era scuola per ciechi a quando è diventata scuola normale, con il passare del tempo naturalmente si è sviluppato un processo di integrazione, così come era voluto dalla legge, come era voluto appunto dal progetto, che a non avere altro aveva se non altro l'importanza di non ghettizzare più le persone non vedenti fra loro, ma quelle di metterle a contatto con un'altra realtà e nello stesso tempo di porre la realtà dei ragazzi appunto che frequentano questa scuola, ragazzi normovedenti, di metterli a contatto con una realtà che non conoscono e quindi, diciamo, di creare un'integrazione a tutto tondo. Il sistema Braille si basa su 6 punti, che è un rettangolino di 2 punti in alto, 2 punti in mezzo e 2 punti in basso. Attraverso questa macchina noi riproduciamo i punti in rilievo. Questi punti sono i 2 punti in alto, i 2 punti in mezzo e i 2 punti in basso. Combinando i diversi punti io faccio l'alfabeto e quindi combino le parole. Attraversiamo i corridoi di questa piccola scuola, guardiamo i laboratori, le aule di musica e i visi sorridenti dei ragazzi. Tutto funziona. Usciamo con un pensiero amaro, rivolto a certe strutture fatiscenti, abbandonate, in periferia, là dove forse ci sarebbe ancora più bisogno di progetti così. Quest'anno la scuola Vivaio compie 40 anni, un punto d'arrivo, forse si spera per progetti simili, anche un punto di partenza. Il preside Alfredo Lapini. Il punto di forza è sicuramente la grossa empatia, il coinvolgimento, la motivazione del personale docente, non docente e anche delle famiglie, e qui si lavora soprattutto sulla inclusività, e quindi anche le famiglie degli alunni non disabili, non diversamente abili, sono, come dire, tutte, la grande maggioranza, motivate al nostro progetto di coeducazione. Questo è un percorso ormai pluridecennale. In questo periodo noi stiamo organizzando l'anniversario del 40° anno proprio della coeducazione, cioè dell'inserimento in quella che era una scuola per ciechi degli alunni non ciechi, cioè negli alunni senza disabilità, senza minorazioni, e quindi questa, come dicevo prima, interazione è per noi, per entrambe le parti, particolarmente significativa e foriera di successo e di crescita per tutti. Avete ascoltato Reportage, suoni e voci dall'Italia e dal mondo. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it.